Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti carissimi amici e ben sintonizzati sulle frequenze di D-Radio da parte di Sandro Sartori per questa puntata veramente specialissima di Anteprima Rock Wave. Infatti questa sera avremo due grandissimi ospiti in collegamento telefonico con noi, ma intanto do il benvenuto al nostro grande esperto musicale Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Ciao Sandro, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, due grandi ospiti, più tardi avremo un rocker. Sì, un rocker d'origine veneta, ma anche se abita a Milano da un sacco di tempo. Che si chiama Massimo Priviero. Priviero, però invece adesso una delle voci femminili veramente più incantevoli, partita dal mondo indipendente e adesso lanciata con il suo disco ben al di fuori anche dell'Italia, quindi un grandissimo momento per lei. Stiamo parlando di Cristina Donà. Pronto Cristina? Pronto. Buonasera pronto. Cristina. Grazie per queste belle, lusinghiere parole. Beh, sono del tutto meritate. Cristina, la quinta stagione del tuo quarto disco, il primo per il passaggio, quel passaggio per la EMI, tu hai detto è un disco molto fruibile, non so se questa definizione sia stata un po' accelerata da tua sorella oppure no. Io l'ho letto questo. Sta diventando famoso. Che tua sorella ha detto finalmente un disco che piace anche a me, così? Esatto, sì, è una delle mie critiche, diciamo, maggiori, e per fortuna, anche perché almeno c'è un po' di distacco, nonostante, voglio dire, l'affetto e tutto quanto, lei è sempre stata molto... molto diretta. Poi è una che ama la musica ma non magari non ascolta le cose più particolari, anzi è quando mi ha detto riesco ad ascoltarlo anch'io, ecco, sì. Ha detto beh, forse sono arrivata a un punto d'equilibrio tra magari quello che io intendo nel mio lavoro portare avanti, che è magari il lavoro sulle parole, su un certo tipo di atmosfere, così, che non sempre magari sono facili da recepire al primo ascolto, e insomma una sorta di equilibrio che comunque ci tenevo a raggiungere, perché i miei esempi poi musicali sono quelli, diciamo, più vicini al mio cuore, sono artisti che hanno fatto della semplicità la loro arma più forte, pur trasmettendo e portando avanti un discorso molto profondo e complesso. Sì, esatto, quando eri alle medie hai detto, ascoltavi i Puma, sei stata folgorata da Tom Waits. Esatto. Allora, esatto. Anche se non hai niente contro i Puma, chiaramente, però Tom Waits è un'altra cosa. Sì, vabbè, io devo dire che poi, sai, è facile a volte... come dire, trovare brutte delle canzoni perché magari hanno degli arrangiamenti così o appartengono a un certo mondo, spesso il pubblico, chiamiamolo alternativo, è molto più talebano di quello, sì, del pop, e quindi basta solo che un disco venda tanto per essere brutto. In realtà non tutte le canzoni, anzi fortunatamente insomma ci sono tantissimi esempi di cose molto, chiamiamole, commerciali, che invece hanno come base delle canzoni, delle, come dire, una struttura e una espressività fortissima, comunque al di là del gruppo, del cantante e del momento in cui sono uscite. Non so, io ho rifatto How Deep Is Your Love dei Bee Gees, che è su un album, doppio album straordinario, che è quello della colonna sonora delle Febbre del Sabato Sera. E tanti mi hanno detto, vabbè, ma i Bee Gees... Non dovevi toccare i Bee Gees. È una canzone bellissima, a parte che loro sono degli autori fantastici, ma la canzone è meravigliosa, magari ascoltarla adesso col falsetto e tutto quanto può fare un effetto strano, però è importante andare al di là di quello che è... dei preconcetti, chiaramente. Il vestito, sì, altrimenti si diventa... ci si preclude a un mondo di meraviglia, perché ci sono un sacco di belle cose in giro. Cristina, il tuo percorso comunque cantautorale inizia molto da lontano, diciamo che tutta la gavetta indipendente tu proprio l'hai fatta tutta, e adesso c'è questa opportunità, questa esperienza con la EMI. Che differenze trovi nel lavorare per una major rispetto a tutto quello che hai fatto in passato? Ma in questo momento ti posso dire che fortunatamente sono rimasta legata comunque alla Mescal, che è ora solo tra virgolette il mio management, quindi le persone con le quali ho a che fare sono spesso di nuovo le persone con cui avevo a che fare prima. Quindi i punti di riferimento dal punto di vista umano... Esatto, per fortuna non sono cambiati. Devo dire che anche le persone che lavorano in Eni, che ho conosciuto adesso, e spero rimangano quelle, perché ormai ogni 2 per 3 vengono ripiazzate, licenziate, no? Per ora hanno fatto un ottimo lavoro, hanno lavorato veramente di fino e aiutando anche un disco che, a mio parere, appunto, e soprattutto a parere di mia sorella, secondo parere di mia sorella, è un disco, diciamo, fruibile. Proprio per questo motivo, avere dietro una major in un caso così può aprirti delle porte che magari le etichette piccole fanno un pochino più fatica ad aprire, come insomma il discorso con le radio, eccetera, eccetera. E per il resto vedremo, spero di non finire in uno di quegli aneddoti della storia del rock, no? Della serie disco bloccato, perché poi i dischi vengono bloccati solo esclusivamente dalle major, perché un'etichetta indipendente non ha nessun interesse a bloccare un disco in uscita, invece quelle brutte storie lì succedono sempre con le etichette grandi. Per ora tutto bene. No, non è stato... io direi molto bene. Certo, il disco tuo non è stato per niente bloccato, è arrivato anche abbastanza bene nelle classifiche italiane, questo è molto positivo al 100%. Sì. A proposito proprio del disco, noi ci prepariamo al primo ascolto per i nostri ascoltatori, proprio di un estratto di La Quinta Stagione, e come facciamo noi di solito in Rockwave, è la redazione a scegliere la canzone. E quindi, cara Cristina, adesso Maurizio dirà la canzone scelta e la motivazione. Io ho scelto Settembre, Cristina, perché aveva un arrangiamento particolare, mi piaceva particolarmente, scusa la ripetizione, mi ha attirato subito, ho detto facciamo sentire Settembre per dare uno sguardo, un'apertura a questo album che tuo personale ti racconti in questo album. Lo faccio sempre, magari non sempre raccontando storie mie, magari facendo mie storie di altri, come fanno tantissimi artisti. Però in questo album particolarmente ho cercato di raccontare chiaramente, più che chiaramente possibile, quello che stavo vivendo, e Settembre io ho voluto metterla come apertura, come canzone di apertura, perché rappresenta molto bene i vari stati d'animo del disco, secondo me, e quindi mi fa piacere che tu l'abbia scelta. Benissimo. Bene, allora andiamo ad ascoltare Settembre dall'album intitolato La Quinta Stagione di Cristina Donà, nostra ospite in collegamento telefonico qui ad Anteprima Rockwave. Rockwave, l'onda del rock. Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa distesa. Tu mi dicevi che la verità e la bellezza non fanno rumore, basta solo lasciarle salire, basta solo farle entrare. È tempo di imparare a guardare, è tempo di ripulire il pensiero, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggera. Il giorno sprofonda nei solchi bruciati di questa distesa. lo sapevi che nessuna gioia nasce senza un dolore, basta solo farlo guarire, basta solo lasciarlo entrare. È tempo di imparare a guardare, è tempo di ripulire il pensiero, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero, è tempo di imparare a cadere, è tempo di rinunciare al veleno, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. Rockway, l'onda del rock. E abbiamo appena ascoltato la canzone Settembre, che apre l'album La Quinta Stagione di Cristina Donà, nostra ospite telefonica. Delicato e dolce, Cristina, mi ha fatto molto bene, come da tua tradizione, chiaramente. Terapeutico. Terapeutico, esatto, terapeutico. Tu hai avuto molti estimatori nei paesi anglosassoni, soprattutto Robert Wyatt, che è stato proprio colpito da gocce, che ha voluto duettare con te tempo fa. E hai ritrovato un nuovo produttore, Peter Walsh, che anche lui proviene dal mondo anglosassone. Come ti sei trovato con Peter Walsh? Benissimo. Ho conosciuto non solo un produttore straordinario che ha molta cura per i dettagli, per la voce, insomma, ha fatto un lavoro veramente fantastico. Non solo un produttore che appartiene alla storia del rock mondiale con dischi importantissimi e anche a cose più sperimentali come Scott Walker, che insomma, di cui è produttore ormai ufficiale da 20 anni, penso, ma ho conosciuto anche una persona straordinaria, perché è veramente è molto simpatico, molto tranquillo quando lavora, molto pignolo, è lì è lì, però la si butta un po' a sorridere, ma bello un incontro anche umanamente, insomma, ho arricchito il mio campionario di presenze umane, di conoscenze, di amicizie. Quindi è stato un accrescimento continuo praticamente. Ma sì, sono sempre stata, devo dire, comunque fortunata con i produttori, perché a partire da Manuel, poi passare a David Ray Moore, certo, del Coup de Cousteau, fino ad arrivare appunto a Peter, è stato un viaggio sempre molto bello, diversissimi tutti gli uni dagli altri, ma sempre molto disponibili, molto professionali, caratteristiche importantissime per la produzione di un disco. Per quanto riguarda invece il titolo che hai scelto, Cristina, abbiamo letto che c'è qualche riferimento alla saggezza orientale, a tutto il mondo un po' della medicina tradizionale orientale, eccetera. Sì, ma sono molto attratta da quelle medicine che noi chiamiamo alternative, che sì, sono alternative alla nostra, ma che hanno veramente millenni di storia, come la medicina tradizionale cinese, che arriva addirittura probabilmente prima della nostra come conoscenze, come profondità, e che affrontano la malattia o comunque quello che è il malessere fisico in una maniera più, innanzitutto più completa, no? Quindi non solo non si basano sul sintomo, ma cercano una le causa. Cause. Esatto. E siccome poi anch'io sono appassionato un po' di queste cose, e allora quindi sì, pian pianino sto facendo le mie ricerche. Ho conosciuto qualcosa, insomma, non molto della medicina tradizionale cinese, e l'esistenza di questa quinta stagione, che è una stagione di passaggio, dove ci si prepara, no, alla stagione che sta arrivando, e questa preparazione, questa idea di preparazione mi piaceva. È una sorta di prevenzione, di prendersi cura poi di se stessi prima che poi ti arrivi addosso, magari in questo caso l'influenza o qualsiasi altra cosa, no? Ma cercare di ascoltarsi un pochino di più e agire magari attraverso delle cure che non sono, come dicevamo prima, solo una mirate al sintomo. Certo. E a proposito di non soltanto di ascoltare se stessi, ma di far ascoltare, andiamo con Maurizio alla seconda scelta da questo tuo splendido album. Sì, Cristina, io ho scelto il singolo, però di solito la redazione di Rockway non sceglie mai il singolo, ma stavolta era troppo bello il pezzo, non ho potuto fare a meno di non sceglierlo, quindi mi sono stato proprio spinto automaticamente ed ho scelto questo pezzo delicato, ma allo stesso tempo fatto bene, perfetto in tutti i punti, secondo me. Mi fa ovviamente molto piacere, e Universo è un altro brano nato da... se vuoi, vabbè, da diversi spunti. Uno sicuramente rivolto al tema delle cose che finiscono, e quindi una sorta di spinta verso qualcosa che in teoria non dovrebbe finire, poi finire anche quello, no? Che è l'universo in cui siamo immersi, è il codice stellare, dove c'è un'energia, un segreto che penso appartenga alle stelle quanto agli esseri umani, alle cellule più piccole, ed è secondo me poi tutto collegato anche all'energia dell'amore, adesso senza essere poi troppo fricchettoni però volevo raccontare questa cosa senza essere patetica, ma raccontandola attraverso qualcuno che un giorno si mette a guardare in alto e dice le parole che dico nella canzone. Benissimo, allora andiamo ad ascoltare Universo, questo è sempre l'album, la quinta stagione di Cristina Donà, quest'oggi in collegamento telefonico direttamente con noi di radio. Il rock di radio. Niente è se tutto sembra diverso. L'onda del rock. E ci siamo tuffati proprio nell'universo incantevole di Cristina Donà, che è nostra ospite telefonica. Eccoci, ci sei. Cristina, è un pezzo, come ho detto prima, perfetto. Perfetto, assolutamente perfetto. Accattivante, ma questo non vuol dire noioso, non vuol dire commerciale. È un pezzo perfetto, secondo me. Non c'è altro. Vabbè, riferirò a tutti. Ecco, benissimo, ti ringrazio di questo. Quelli che hanno lavorato, insomma, questo, gli arrangiamenti. Sì, gli arrangiamenti veramente fatti in una certa maniera. Tu hai una delicatezza nel cantare, che tu è proverbiale, però questo è un pezzo decisamente al di là, secondo me, qualitativamente parlato. Grazie anche ai suggeritori, quelli invisibili. Okay. Allora, cara Cristina, noi vorremmo darti anche una news per quanto riguarda una persona che conosci bene. Sì, fra due mercoledì, esattamente mercoledì 15, avremo il grande piacere di ospitare in diretta nei nostri studi per 2 ore di musica Creme. Ma dai. Sì, viene a suonare qua a Padova, sono riuscito attraverso la Sara ed altre cose, la sua manager, e viene qua a suonare, questo mi fa molto piacere. Io ho una grandissima stima di Creme, che tra l'altro ho conosciuto nel 99, credo, qualcosa di simile, nel 2000. Sono stata invitata all'epoca a fare un concertino, chitarra-voce, vicino a Brindisi, e in questo posto dove ho suonato su una panca, come la capra, perché non c'era il palco, ma... E lui ha fatto qualche canzone prima di me, sono rimasta molto colpita, poi ci ha fatto avere, insomma, negli anni mi ha tenuto aggiornata, e poi tra l'altro negli ultimi anni mio marito, che è Davide Sapienza, insomma, giornalista abbastanza conosciuto. Sì, io leggo Il Muico Selvaggio dal 77, ecco, quindi lo conosco benissimo. Lo conosci, è scrittore, insomma, è una persona straordinaria per me, e quindi... ha aperto con alcuni soci, con altri due soci per l'esattezza, una piccolissima etichetta discografica, e hanno preso così, si sono presi cura di questo talento, grandissimo talento che ha Creme. Io ho fatto un piccolo cameo, e credo che sia un album di canzoni meravigliose, quindi verrà con me tra l'altro in tour. Non per tutte le date, però insomma, dove riuscirà anche lì a raggiungerci, proprio così, il piacere di averlo come apertura, chitarra voce, così potrà un po' farsi conoscere da più gente. Gli auguro veramente un successo, gli auguro di poter fare quello che gli piace nella vita, poi il successo ti permette magari, ecco, di vivere meglio, però... merita veramente molto. Senti Cristina, per chiudere questa nostra puntata di Anteprima Rockwave dedicata a te, con quale canzone vuoi del tuo album vuoi che salutiamo il tuo pubblico? Ma io proporrei Non Sempre Rispondo, che è una canzone secondo me appropriata per questi tempi, perché siamo subissati da richieste di risposte dalle email, da tutti i mezzi che possono raggiungerci, dal telefonino al telefono di casa, qualsiasi cosa che ci espone, diciamo, a una richiesta, e quindi così mi è venuto a scrivere questa canzone preda una giornata di disperazione, proprio perché non riuscivo più a capire che cosa dovevo fare, tante erano le richieste di risposta, non so adesso come chiamarle, comunque spero che abbiate capito di cosa sto parlando. Certo. Sì, tutti noi abbiamo telefonini, email, e quindi così ho voluto giustificare un'eventuale mia non risposta con questa canzone. Benissimo. Cristina, noi ti ringraziamo veramente tanto per questa chiacchierata. E speriamo che tu possa far presto tappa a Padova con qualche bel concerto. Anch'io lo spero, perché ho diversi amici da quelle parti, compresa Lubian, che è venuta qua spesso e volentieri a suonare. Esatto, che è un'altra delle mie preferite, e quindi ci torno volentieri. Benissimo. Cristina, grazie. Grazie Cristina. A prestissimo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. A voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Il rock di Viradio. Non sempre rispondo, dipende dai giorni, dall'aria che tira tra me e i miei ricordi. Per cui se succede che qualche argomento rimane silente o qualche risposta sia un poco sfuggente, sappi che a volte nella mia testa cade una grandine molto violenta, forse passeggera, ma poi ritornerà. Aspettarmi, preparati pure un sandwich. Per la mia testa quando cade una grandine troppo violenta, so che passeggerà, ma poi ritornerà, e se faccio tardi, regalami dei confetti, forse passeggerà. Quando tornerà, tu non aspettarmi, ma ricordati di pagare.